A bordo campo di Dario Ricci. C'è una parola inglese che sintetizza bene il contenuto e l'argomento di questa giornata oggi qui e di questa puntata qui a bordo campo. Shooting, perché shooting vuol dire sparare, tirare, e di fatto il nostro ospite con la pistola dai 10 metri nel tiro a segno ha vinto addirittura un argento alle ultime Olimpiadi di Londra 2012. Ma shooting è anche fotografare, e sempre il nostro ospite con la macchina fotografica ha realizzato un piccolo grande capolavoro, che è poi quello di cui parliamo oggi qui a bordo campo. E allora introduciamolo subito, chiamiamolo subito in causa. Benvenuto Luca Tesconi. Ciao, buongiorno a tutti. E allora Luca, 31 anni, argento olimpico a Londra 2012 nella pistola a 10 metri, nel tiro a segno che tanti allori ha portato al nostro medagliere, ma è passato un po' di tempo e ti abbiamo scoperto anche fotografo, no? Perché l'obiettivo è sempre ben chiaro, ben preciso. Questa volta però hai realizzato una mostra fotografica che è ospitata da Palazzo Panichi a Pietrasanta, vicino Lucca, sarà ospitata fino al 31 marzo, dal titolo davvero particolare, Non luogo. Ecco, che cosa hai fotografato, che cosa hai messo questa volta nel mirino, Luca? Esatto, hai detto benissimo, devo aggiungere non improvvisato fotografo dopo la medaglia, perché ho letto anche da alcune parti magari dopo la medaglia improvvisato fotografo, no, non è così, ho studiato fotografia ancora prima dell'esperienza. Infatti. Olimpica è un percorso lungo, un percorso che è nato dall'Istituto d'Arte e poi incrementato con diversi corsi. Anzi, forse la tua prima passione è la scultura, se non sbaglio, vero? Sì, esatto, scultura e pittura, ho iniziato da lì, e da lì poi mi sono innamorato anche della fotografia quando i miei genitori mi regalarono, dal passaggio dalla seconda alla terza superiore, la prima reflex a rullino, la vecchia Minolta che ancora conservo in camera, ogni tanto uso ancora, anche se ormai siamo nell'era del digitale. È difficile staccarsi dagli strumenti del mestiere, eh? Credo, no, che esatto, anche poi la prima pistola credo la conserverai nel cassetto. Sì. Beh, diciamo quella delle Olimpiadi conservo ancora nel cassetto, sì, beh, quella sì. E beh, poi sono un tipo molto possessivo, ma attacco tanto alle cose, soprattutto vecchie, quindi ci tengo tanto ad averle ancora con me. Sì, hai detto giusto, la mostra che si intitola Non luogo, a Palazzo Panichi da sabato scorso fino al 1 aprile, aperta dal giovedì a domenica. Ho deciso di dare questo nome, Non luogo, un nome un po' particolare. Ho fotografato tutti gli ex manicomi italiani e ho voluto rappresentare in queste foto, che poi in tanti hanno detto che non sembrano foto ma sembrano quadri in 3D, e sinceramente mi fa ancora più piacere rispetto alla classica foto. Beh, tra l'altro, diciamolo subito ai nostri ascoltatori, sono foto visibili dal nostro sito internet www.radio24.it, quindi ci fa piacere anche fare questa sinergia, stiamo raccontando delle fotografie che poi magari nel momento stesso in cui ci state ascoltando potete vedere tramite il web, tramite i vostri iPhone, gli iPad, eccetera eccetera. In effetti, avendole sotto gli occhi, sembrano veramente delle pitture rupestri in alcuni casi, ci sono quasi degli animali fantastici, ma anche grotteschi, spaventevoli, direi, se mi è concesso il termine. Tutti dipinti, spesso realizzati dagli internati che erano in questi manicomi, no? Beh sì, credo di sì, poi io, sai, l'ho trovati lì, non ho fatto un lavoro di post-produzione aggiungendo, sistemando la scena fotografica, io ho fotografato proprio da reportage, quindi io sono andato lì, ho trovato un soggetto, mi ha colpito, ho trovato tutto com'era e ho scattato, non è che mi sono messo io a rappresentare una scena. E comunque guarda, hai fatto benissimo a ricordare delle foto nel sito, perché poi per radio è sempre difficile raccontare magari delle immagini o delle foto, no? No, ma è sicuramente un'emozione in più che costruiamo qui a bordo campo. Tra l'altro devo dire che c'è un'altra particolarità, che tu nella tua ricerca, a parte questa ricerca, se non sbaglio è durata anni. La ricerca è durata, sì, 2 anni, perché poi a parte il lavoro in se stesso fotografico è anche il lavoro che va alternato tra ovviamente tra gare e allenamenti, quindi va alla lunga nel tempo. Anzi, spesso anche, so che per la tua passione, spesso anche i viaggi legati all'attività agonistica sono un buon pretesto per fare qualche foto, no? Beh, certo, diciamo che la macchina fotografica è sempre al mio fianco. Ovviamente viene prima l'attività agonistica e poi la fotografia. Però diciamo, ecco, è sempre con me la macchina fotografica. Se capita qualcosa, un soggetto strano, ho piacere nel riprenderlo. E comunque ti dicevo, non luogo, perché ritornando poi al discorso del titolo della mostra fotografica, abbiamo deciso di dare questo nome perché non luogo era come se mi trovavo in un ex manicomio a Pisa, un ex manicomio in Lombardia, ovunque fosse, io era come se fossi sempre nel solito non luogo. Era come stare in un McDonald's, che poi alla fine è uguale sia se sono a Roma sia se sono a New York. Era questa la cosa sconcertante. Certo, lo stato emotivo era trasversale, quasi prescindeva dal contesto geografico, topografico, no? Esatto. Io quando entravo dentro sapevo già che magari a destra ci sarebbero state le sale dei dottori, a sinistra ci sarebbero state l'accettazione, le sale dei pazienti più pericolosi, e quindi era veramente un non luogo. C'è un motivo profondamente biografico, no, che ti ha spinto a scegliere proprio questo soggetto? Beh sì, ovviamente i racconti di mio padre. Ero bambino e mio padre era rappresentante farmaceutico e portava in un manicomio qua di Lucca i medicinali ai dottori, e quindi mi raccontava da bambino le storie di questi fra virgolette matti che arrivavano al carrellino dei medicinali come zombie, tutti in fila con gli occhi sgranati, e andavano lì. Era una cosa spaventosa, però da bambino mi faceva anche ridere, e questa cosa si vede mi è rimasta dentro nel subconscio. Poi ho incrementato, insomma, poi dopo attraverso i libri anche di Mario Tobino, delle bellissime storie ambientate dentro i manicomi. Ecco, da lì mi è nata questa passione, se così possiamo dire. Ci sono delle foto straordinarie, mi viene in mente quella di diciamo, parlo non da tecnico, ma di un primo piano, di un particolare, di un dettaglio, di una cinghia per immobilizzare i pazienti sul letto, che sì, è veramente... Sì, quella è la camicia di forza, un dettaglio della camicia di forza. Quella è, insomma, sono dettagli che danno l'idea di un mondo. Quali sono state finora le reazioni che hai visto nei visitatori della mostra? Guarda, no? C'è stata una grande affluenza però di pubblico, una grande considerazione da parte dei media, e sinceramente sono anche contento da parte delle critiche, magari di fotografi, perché le foto rimangono dentro. Quando esci dalla mostra fotografica ti rimane qualcosa dentro, un'emozione, che sia ansia, che sia angoscia, che sia depressione, solitudine, ecco, ti rimane qualcosa dentro di quando esci. Mi è rimasta a me una volta che finivo di scattare. Tra l'altro va anche detto che tu non hai voluto rivelare un segreto, un piccolo grande segreto, cioè non hai voluto dare le indicazioni precise di quali ospedali, no, di quali ex manicomi hai fotografato, vero? Proprio a dare l'idea di questo non luogo. Esatto, così poi il cerchio si chiudeva, non ho voluto rivelare dove erano state scattate, anche per dare poi una sorta di, insomma, di mistero alla cosa. Però ecco, alla fine parlavamo di non luogo, e quindi così resta, non ha importanza dove siano state scattate, perché sempre non luogo è. E che immagine dell'Italia emerge da queste foto e da questa esperienza? Tu che tra l'altro per l'Italia sfidi i tuoi limiti, sfidi ogni giorno gli avversari, cerchi di conquistare gli allori, diciamo, più prestigiosi. Metto sempre in gioco, sì. Ma guarda, io non sono un dottore, non sono un psichiatra, non sono uno psicologo, quindi non posso dare una definizione o qualcosa di tecnico su ciò che è stato dopo la chiusura dei manicomi e ciò che era. Però ecco, essere sincero, la cosa che ti rimane dentro è veramente un'impressione forte, ti rimangono dentro veramente tante emozioni, un mix di emozioni tutte insieme. Davvero, quando percorri quei lunghi corridoi, quelle strane stanze di 2 metri per 2 con le sbarre finestre, le porte spesse 20 centimetri, lo spioncino alla porta che poi alla fine era l'unico contatto con il mondo esterno che il paziente aveva, ecco, ti rimane qualcosa dentro. Veramente provi, io fotografando mi sono messo dalla parte del soggetto, ho immaginato ad essere dentro quelle sale, ad essere su quel lettino, e quindi veramente ti rimane dentro qualcosa di angoscioso, di quello che possono aver provato. Se poi pensi anche che niente doveva uscire da là dentro, ci sono tante lettere scritte dai pazienti verso casa che in realtà poi non sono mai arrivate a destinazione e sono emerse dopo la chiusura dei manicomi. Eh sì, hai puntato l'obiettivo verso un nervo scoperto, in qualche modo però nascosto, verso un tema spesso rimosso della nostra coscienza. Ti chiedo ancora, Luca, c'è una foto più di altri che ti accara, che ti ha nel cuore, o che forse più di altri sintetizza e racconta l'intera mostra? Guarda, veramente le foto le ho tutte a cuore, perché ogni foto è stata una foto pensata, immaginata, ponderata e tecnicamente studiata, soprattutto colta poi dall'istinto. Ma beh, quella che ritrae le tre sedie da sole con la scritta Solitudine in fondo, penso che sia quella che un po' racchiude tutto il senso della mostra. E allora l'invito è quello di andare subito a vedere sia la mostra a Pietrasanta vicino Lucca, fino al primo aprile, e poi anche di andarsi a vedere le foto su www.radio24.it. Luca Tesconi. Certo, vorrei ricordare anche l'ingresso libero. Assolutamente, soprattutto assolutamente. Che non sarà una mostra che inizia e finisce qua a Palazzo Panichi a Pietrasanta, ma che sarà una mostra, pensiamo, itinerante, quindi forse magari andrà a Milano, forse a Lucca, non lo so, però ecco, sarà itinerante, questa è la cosa importante. E quindi è solamente il primo passo. Nell'obiettivo, esatto, immagino che ci siano però anche altri importanti appuntamenti agonistici, Sì, sia agonistici di tiro a segno, sia obiettivi fotografici o diversi appuntamenti. Agonistici per quanto riguarda la vita sportiva, ovviamente sono i giochi del Mediterraneo che saranno in Turchia a luglio, è quello il primo grande appuntamento che avrò. Adesso sono un mese di riposo e poi il prossimo mese ricomincerò gli allenamenti. A livello fotografico invece tengo ancora tutto segreto, perché ho diverse cose in ballo e ancora non voglio espormi. Ah, bene, allora un po' di mistero. Beh, solo la promessa di ripassare qui a bordo campo a riraccontare le nuove foto, mi raccomando. Certo. E allora grazie a Luca Tesconi per essere stato nostro ospite, l'argento olimpico nella pistola dai 10 metri di Londra 2012, e anche uno straordinario fotografo, come testimoniano le foto della mostra Non Luogo. Grazie Luca. Grazie a voi, un saluto. A bordo campo. La Lega Pro scende in campo contro le frodi sportive. Beh, lo sapete, qui a bordo campo ci siamo appassionati al tema, anche perché purtroppo l'attualità del nostro calcio ce l'ha imposto nostro malgrado, e quindi stiamo percorrendo le tappe di questa lotta alle frodi sportive, alle scommesse clandestine, alle combin che il calcio contemporaneo si trova ad affrontare. Curioso notare che forse i progetti più all'avanguardia vengono messi in campo dal cosiddetto calcio minore, no? Su cui i riflettori sono spesso meno accesi, ma non meno presenti per questo le problematiche relative al tema che affrontiamo. E allora abbiamo in collegamento in diretta con noi Vittorio Angelaccio, che insieme a Emanuele Paolucci, insieme al direttore generale della Lega Pro Francesco Ghirelli, è uno dei componenti del cosiddetto Integrity Office della Lega Pro, cioè quella struttura, quell'ufficio che gira di campo in campo, di società in società, di club in club, per mettere in piedi le strategie di comunicazione e di informazione presso le società e i calciatori per fronteggiare il tema delle frodi sportive. Benvenuto, dottor Angelaccio. Buongiorno a tutti e grazie per questa intervista. Grazie a lei per essere ospite qui a Radio 24 e a bordo campo. E insomma, dottor Angelaccio, dicevamo, Lega Pro, il cosiddetto calcio minore, la ex Serie C per essere ancora più espliciti, che però è all'avanguardia in questa lotta alle frodi sportive grazie proprio alla struttura di cui lei è parte. Avete avviato un progetto definito Integrity Tour e che di fatto vi sta portando a contattare, incontrare tutti i club della Lega Pro per mettere in campo le giuste strategie di prevenzione, no? Certamente, noi nel 2010 mi preme sottolineare e ricordare una tappa fondamentale nel calcio italiano in modo particolare. Siamo nel 2010 quando scoppia l'indagine di Cremona e quindi noi come Lega Pro delle 40 partite, ripeto, del calcio italiano sono risultate essere state manipolate, 14 erano di Lega Pro. Noi già da qualche mese avevamo avuto un rapporto di collaborazione molto, molto forte con Fortrada, una società leader che poi, come vedremo, è quella che ci accompagna nel tour, che lei diceva, no? Nell'Integrity Tour. E con Sportradar abbiamo avviato un percorso di monitoraggio e di formazione che poi ci sta dando i suoi frutti. Concordo con lei, siamo la Lega minore, la Lega che nel 2008 da Lega Professionisti Serie C è diventata Lega Italiana Calcio Professionistico, e questo è un grande vantaggio perché ci consente comunque con l'ottimo ausilio della nostra dirigenza di essere un po' quelli che vanno ad innovare, no? Dal concetto appunto dei valori che stiamo portando avanti all'Integrity Tour e quindi al monitoraggio per la prevenzione, soprattutto mi preme sottolineare questo. Ecco, dottor Angelaccio, Pisa, Viareggio, Savona, Chiavari, poi Virtus Entella, Bassano, Venezia, Portogruaro, Sorrento, Salernitana, Nocerina, queste solo alcune delle tappe di questo Integrity Tour che state sviluppando per tutti i club della Lega Pro. Come si svolgono questi incontri di formazione e prevenzione con i club, con i calciatori? Si svolgono in un modo molto semplice. Noi abbiamo adottato questa politica di andare presso le società. L'attività di Integrity Tour è proprio un porta a porta, come lo definisce il vice capo di polizia, il prefetto Cirillo, dove noi materialmente ci rechiamo all'interno delle società. Il programma è molto semplice: iniziamo la mattina intorno alle 10-10 e mezza, a seconda delle esigenze dei singoli club, e abbiamo un incontro con i giocatori della prima squadra e lo staff della prima squadra. L'incontro dura un'ora e mezza, due ore, a seconda diciamo della durata, appunto, o comunque degli interventi che vengono fatti, per poi lasciare spazio nel pomeriggio a quelle che sono le seconde squadre. Con le seconde squadre mi riferisco in particolare ai giovani che militano nelle squadre del Berretti, piuttosto che allievi nazionali, giovanissimi nazionali e altre squadre comunque del settore giovanile. Quindi diciamo che è un percorso formativo che nella mattinata si rivolge ai giocatori di prima squadra e nel pomeriggio, anche per esigenze organizzative, scolastiche, si rivolge ai giovani del settore giovanile, alle squadre del settore giovanile. Ecco, tra l'altro, non considerate, cari ascoltatori, che si facciano solamente chiacchiere, perché si va molto sul pratico e già ci sono stati degli effetti importanti, come quanto è accaduto ad esempio con il Como, vero? Certo, quello che noi mettiamo in luce è sostanzialmente una breve panoramica del mercato del betting a livello internazionale, perché ricordiamoci che non è un problema solo legato all'Italia, non è un problema legato solo al fenomeno del calcio, ma racchiude una serie di sport. E dopodiché noi passiamo realmente a quello che sono i possibili approcci dei match fixer, no? I match fixer sono i possibili manipolatori, cioè li rendiamo proprio con casi molto pratici, come possono essere approcciati, dove, in un bar, piuttosto che per esigenze personali, quindi, o ai campi di allenamento. Quindi cerchiamo di dargli un'infarinatura di tutte quelle che sono le possibili situazioni in cui possono trovarsi, e poi praticamente andiamo ad affrontare quello che è con un nostro documento, quelle che sono le sanzioni penali e le sanzioni sportive previste dal codice sportivo e dal codice penale. Chiaramente tutta questa serie di informazioni fa sì che loro possano avere un bagaglio culturale, un insieme di strumenti rivolti anche ad assumere anche alcune protezioni personali. Mi spiego meglio. Il caso avuto due settimane fa nella società del Como, in cui alcuni calciatori sono stati contattati attraverso Facebook da un serbo, da una persona di origini serbe, che gli ha iniziato a fare delle domande, no? Di tipo ma hai un altro lavoro piuttosto che quello del calcio, vorresti guadagnare di più, vorresti investire nel calcio. E questi ragazzi a un certo punto, quando si è iniziato a parlare di possibili puntate o comunque combine su alcune squadre, hanno avuto il coraggio di denunciare sia nei confronti dei loro dirigenti che nei confronti poi della procura. Quindi questo è un segnale molto forte che comunque rappresenta che siamo sulla strada giusta. Ecco, dottor Angelaccio, le chiedo ancora, come reagiscono soprattutto i giovani calciatori che spesso non hanno consapevolezza di essere potenziali oggetto delle attenzioni, diciamo così, dei truffatori di professione? Reagiscono nel modo più semplice, nella maggior parte dei casi non hanno idea di quanto sia grande il fenomeno, non hanno idea di quali siano le sanzioni penali e le sanzioni sportive diciamo a cui possono andare incontro, e non hanno idea soprattutto di quali possono essere i modi molto semplici con cui alcune persone che fanno parte soprattutto di bande e di organizzazioni criminali possono avvicinarsi a loro. Il nostro compito è quello appunto di fare un'attenta informazione, attenta educazione, attenta prevenzione proprio in quest'ottica. Nello specifico, la vostra categoria su cosa deve concentrarsi per il futuro? I tre obiettivi principali da raggiungere a breve? I tre asset importanti sono giovani, valori e territorio. E l'attività di Integrity sta andando proprio in questa direzione, va soprattutto sui giovani che sono l'anello debole della catena, sono i maggiori bersagli di queste organizzazioni criminali, perché noi facciamo spesso vedere che anche nelle loro partite, quindi si sta parlando di campionati di allievi nazionali, giovanissimi nazionali, è possibile scommettere non in Italia, non in Europa, ma in Asia e quindi nei mercati asiatici. E soprattutto l'importanza di preservare quello che è l'etica nello sport e l'integrità nello sport, e quella attraverso la territorialità, quindi dare un messaggio forte a tutte le nostre 69 società che rappresentano tutto il tessuto italiano. E allora, Vittorio Angelaccio, Integrity Officer della Lega Pro, direi che il lavoro sicuramente non vi manca, ma nella Lega Pro siete partiti con il piede giusto. Beh, l'appuntamento è presto ancora qui a bordo campo per fare un ulteriore check dell'Integrity Tour che nel frattempo andrà avanti, e intanto grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24 e a bordo campo. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a Pietro Lacorte che ha curato la regia di questa puntata di A Bordo Campo. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare sempre attraverso il nostro sito anche con il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento, come d'abitudine, è per domenica prossima, sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.